Sono come sono, sei come sei. Sono come sono, sei come sei. Torno a casa e non vorrei. Parto scemo, torno migliorato. Faccio il mio lavoro in una capsula spaziale contenente un maiale. Capsula spaziale contenente anche me. Sono come sono, sono fatti miei. C'è qualcosa fuori e non vorrei perdere del tempo, sono diplomato, non c'è molta gente in una capsula spaziale contenente un maiale. Capsula spaziale contenente anche me. Capsula spaziale, capsula spaziale, capsula spaziale. Capsula spaziale, è sempre uno andare avanti, quando gli altri sono stanchi, quando qualcosa è andato storto, c'è sempre del lavoro sporco, ma a volte guarda la fortuna, è proprio lì dietro la luna, trovo qualcuno che mi somiglia, che fai mille all'ora in una. Capsula spaziale, capsula spaziale, capsula spaziale, capsula spaziale. Sono come sono, sei come sei. Torno a casa e non vorrei. Parto scemo, torno migliorato. Faccio il mio lavoro in una capsula spaziale, capsula spaziale, capsula spaziale, capsula spaziale. C'è molta gente in una capsula spaziale. Faccio il mio lavoro in una capsula spaziale. C'è molta gente in una capsula spaziale. Faccio il mio lavoro in una capsula spaziale. C'è molta gente in una capsula spaziale. Faccio il mio lavoro in una capsula spaziale. Faccio il mio lavoro in una capsula spaziale. Capsula spaziale contenente un maiale. Capsula spaziale contenente un maiale. Capsula spaziale contenente un maiale. Capsula spaziale contenente un maiale. Capsula spaziale contenente un maiale. Capsula spaziale contenente un maiale. Capsula spaziale contenente un maiale. Capsula spaziale contenente anche me.